stasera presentiamo un volume particolare, nel senso che le nostre iniziative riguardano molto spesso il territorio, quindi ci siamo come argomento, abbiamo un taglio prevalentemente storico e narrativo, ma questa sera entriamo nel vivo di quello che può essere un interesse più civico che riguarda tutti. Era un tema che stavamo affrontando prima col dottor Thomas Benedicter, che è l'autore del libro e che con cui si rifletteva appunto dell'educazione, della formazione che ognuno di noi potrebbe seguire liberamente attraverso anche un percorso proprio. Ed è un po' il tema che ogni tanto ripetiamo quando si parla della biblioteca con le sue funzioni, ha in fondo un compito educativo per cui le persone possono scegliere qualunque libro, qualunque materiale insieme alla biblioteca e iniziare un percorso, percorso culturale di approfondimento di un tema. In questo senso viene spesso anche identificata la biblioteca come una delle istituzioni più libere dove si può accedere in fin dei conti senza essere né iscritti né pagati, ma usufruire semplicemente di questo servizio civile che viene offerto alla cittadinanza. E lo dico perché appunto noi siamo una biblioteca che organizza periodicamente, settimanalmente incontri con autore e il pubblico, ha per oggetto in primis il libro, ma non siamo qui, ecco, quindi poi il nostro interesse è anche quello che le persone tornino non solo alle nostre presentazioni ma che vengano veramente a prendere in prestito. Questa sera abbiamo con noi, lo ringrazio tantissimo perché ci ha proposto tempo fa questa splendida occasione di approfondire il tema dell'autonomia e dell'autonomia locale, un tema che ha visto e ha cercato di coinvolgere soprattutto nell'ultimo anno attraverso questi dibattiti, questi tavoli di confronto la popolazione con risultati alterni, no? C'è stata più partecipazione in alcuni casi forse ci si aspettava un maggiore coinvolgimento della popolazione. Lo affidiamo queste analisi e queste prospettive all'intervento del dottor Benedicter, che è un economista ma è anche un ricercatore, collabora con l'EURAC, ha pubblicato numerosi libri in questo settore e soprattutto dal 2013 è stato eletto fondatore del centro di ricerca Politis. Non mi dilungo, lascio la parola al nostro ospite, che ringrazio e spero che ci torni a trovare con altre novità nell'ambito della ricerca. Grazie. Tante grazie, signora Trevisan. Biblioteca Claudia Augusta. E poi io sono veramente contento di questa occasione. Buonasera a tutti, naturalmente. Farò una mezz'oretta di presentazione per capire un po' di cosa tratta il libro e poi spero che forse avete ancora mezz'oretta per discuterne o per qualche commento, qualche domanda. Ho preferito non fare le solite presentazioni che avrei pronto anche come PowerPoint per snocciolare più in dettaglio le proposte, però oggi credo è meglio scegliere la forma cartacea e quindi distribuisco semplicemente il libro, semplicemente per vederlo e seguire un po' quei capitoli essenziali. E quindi spero che questo sia il metodo più appropriato. Ci troviamo oggi a 70 anni dall'entrata in vigore del primo statuto. Quale che lo distribuisco o come preferisce? Sì, possiamo farlo subito anche. Mm-hmm. E chi poi vuole portarlo via, oggi c'è il prezzo scontato, invece non lo porta via. Di restituirlo. Grazie. Sì. Insieme di sì. Ci troviamo 70 anni dal primo statuto, 45 anni quasi esatti dall'entrata in vigore del secondo statuto, poi da poco più di un anno sono iniziati i lavori della convenzione sull'autonomia, adesso funziona. E poi non dimentichiamo, per 3 mesi e mezzo noi abbiamo votato su un referendum costituzionale e che per fortuna, lo dico francamente, è stata sventata un tentativo di centralizzare, ricentralizzare lo Stato italiano, cioè è stato sventato la sterzata verso più centralismo in Italia, che prima o poi si sarebbe anche ripercorso sulle regioni in stato speciale. Nel nostro caso dell'Alto Adige non c'è dubbio che c'è bisogno di mettere mano allo statuto, di farlo compiere un salto di qualità, perché questo statuto vecchio di 45 anni effettivamente è in buona parte superato, a tante lacune, sia nella forma che anche nei contenuti. E quindi anche la popolazione, credo, di tutti i gruppi linguistici nutre la speranza che si possa compiere un salto di qualità, si possa arrivare ad un'autonomia più completa, più rafforzata, ampliata. Questo viene rivendicato dalla forza, da altri partiti, forze politiche, ci lavorano anche nella Commissione dei 33 e anche la nostra associazione, la Sorcento Studi, mi ha caricato di formulare una proposta più sistematica di questa riforma, che possa toccare un po' tutti gli argomenti centrali, principali dello statuto. È la prima pubblicazione in Alto Adige di questo tipo, è uscito in tedesco mezzo anno fa, con titolo intraducibile Einständiger Baden, e in italiano è un po' più semplice, la nostra autonomia oggi e domani. E non è la prima pubblicazione di Politis su questo argomento. Già 3 anni fa abbiamo organizzato un ciclo di conferenze sulla riforma dell'autonomia e abbiamo raccolto i contributi di una trentina di esperti in questo volume Con più democrazia verso più autonomia, che trovate qui e potete portarlo a vedere se vi interessa. Autonomia e democrazia sono questi anche i due valori e anche obiettivi di fondo per un'eventuale riforma dell'autonomia, da cui io parto anche in questo libro. C'è proprio un nesso logico fra autonomia e democrazia, a parte il dato di fondo che l'autonomia è stata istituita per proteggere 2 minoranze linguistiche, ma questo credo oggi non si trova più in primo piano. Oggi più abbiamo a che fare con questo nesso tra più autonomia e più democrazia. Rendiamoci conto di questo fatto: più autonomia porta più autogoverno a questa terra, alle istituzioni della nostra provincia. Cioè avremo più poteri decisionali e quindi il potere politico si avvicina ai cittadini, almeno geograficamente. Viene esercitato a Bolzano e non più a Roma. E questo in linea di fondo andrebbe bene anche per tante altre regioni. Pensate un po' alla Spagna, che ha dato autonomia a tutte le 16 comunità autonome, proprio tutte. Comunque questo spostamento di potere dal centro alla periferia deve andare di pari passo con lo sviluppo della democrazia. Bisognerebbe solo un po' abbassare il volume. Perché bisogna C'è il volume che... va bene, bene anche così. Sì. Anzi, scusate. Autonomia e democrazia devono andare di pari passo. E democrazia si declina poi in vari modi. Può essere più democrazia per i cittadini in forma diretta, quindi diritti referendari, può essere un ruolo più forte per l'unico organo eletto del sistema autonomistico, che è il Consiglio Provinciale, può riguardare anche la partecipazione dei gruppi linguistici al governo provinciale, che non è del tutto perfetto, come vedremo più avanti. Quindi più autonomia porta più democrazia, potere più vicino al demos, alla popolazione, ma consente e richiede anche più democrazia. Poi ricordo un altro dato di fondo, prima di entrare nel merito di qualche proposta, che ci sono in autonomia territoriale in fondo solo due filoni di conflitto, due tensioni di questo, in questa tectonica politica. C'è il rapporto fra il centro e la periferia, fra Roma e Bolzano, e c'è il rapporto fra i tre gruppi linguistici, che sono anche soggetti politici dell'autonomia. Quindi bisogna trovare continuamente una soluzione fra Roma e Bolzano e fra noi come cittadini di lingua diversa qui a livello locale. E da qui partono le riflessioni sull'autonomia, le mie proposte. Ricordo anche nel primo capitolo un breve flash sulla storia dell'autonomia e, per dirlo in tre frasi, abbiamo avuto una partenza mal riuscita nel 48, poi nel 72 un compromesso, il secondo statuto di autonomia è stato effettivamente un compromesso molto sofferto anche. Ricordate che c'era appena una maggioranza del 52% della Volkspartei, grande assemblea della Volkspartei, che ha detto sì a questo compromesso. E poi di seguito tanti anni anche per l'applicazione concreta dell'autonomia, finché era tutto, insomma, formalizzato con norme di attuazione, e si può dire anche per fortuna l'attuale legge di Bolzano è riuscita a strappare dei miglioramenti di vario tipo, l'autonomia dinamica, no? al governo centrale, allo Stato italiano. Poi comunque questa autonomia ha tanti limiti ancora, diciamolo chiaramente, e questo non lo dico solo io. Una prova molto evidente è la proposta di legge costituzionale per la riforma dello statuto, a firma dei senatori Zella e Berger, presentata il 15 marzo del 2013, subito all'inizio della legislatura, in cui questi due rappresentanti della Volkspartei hanno modificato, propongono modificare la metà dei 115 articoli dello statuto. E poi naturalmente ci sono anche elementi che hanno funzionato bene, ricordiamo anche questo, elementi di fondo di questo grande apparato giuridico che è l'autonomia, e quindi bisogna pensarci cosa ha funzionato bene, perché cambiare un cavallo se vince la corsa. Io nel mio libro quindi mi concentro su 14 aree tematiche, argomenti centrali della riforma, che vengono anche discussi adesso nella convenzione del 33. Quindi vi propongo di prendere la mano il libro e scorriamo un po' capitoli, così iniziando con il capitolo sulle competenze, il capitolo 3, per vedere un po' come si articolano queste, per rendere il discorso un attimo anche più concreto. La gamma delle competenze, o diciamo in generale la questione delle competenze, è sempre un cuore di ogni autonomia territoriale. È insomma una questione importante, non riguarda poi solo la lunghezza dell'elenco, la lunghezza di questo elenco delle competenze che voi trovate nello statuto di autonomia, primi articoli 4, 5, 6, 7, ma riguarda anche la portata, l'importanza delle competenze, o anche i limiti, i tipi. Quindi qualcuno nella convenzione ha detto: ma sì, ma sempre si parla solo di competenze, che noia, solite cose. Ma invece è proprio una delle questioni di base di ogni autonomia, perché le competenze delineano questa sfera di autogoverno. Quindi ricordo solo quattro punti: si tratterebbe, volendo riformare l'autonomia, di trasformare le competenze solo delegate in competenze effettive, statutarie. Delegate significa che lo Stato può anche in un futuro riprendersene. Di trasformare le competenze concorrenti in competenze primarie. È una differenza molto significativa. Buonasera. Ciao. Grazie. Scopriamo insieme, faccio una carrellata. Scusate il ritardo. Poi anche competenze nuove. Anche di questo si parla. Quindi, pensate per esempio sulla sicurezza del lavoro, gli ordini professionali, la ricerca scientifica, la tutela dei consumatori, quindi alcuni settori a cui i padri dell'autonomia semplicemente non potevano pensare ancora, perché non erano già materia da regolamentare 45 anni fa. E poi anche le competenze che potrebbero passare dalla regione alla provincia autonoma. Quindi la questione delle competenze va vista anche in questo modo, sì, i vari limiti, i contenuti, i tipi di competenza. Voi trovate poi un quadro, se andiamo a pagina 29, del possibile sviluppo delle competenze della provincia autonoma di Bolzano in futuro. 48, 72, poi 2001, che è un'altra data importante, una piccola riforma, e non si sa, forse la riforma dell'autonomia arriverà tra un anno, tra due anni, non lo sappiamo ancora. Poi un argomento, il secondo argomento che potrebbe sembrarvi non talmente prioritario sono le commissioni paritetiche, però sono effettivamente non più all'altezza dei tempi, perché non sono troppo poche, le due commissioni, 6 e 12, sono troppo poco trasparenti, troppo poco democratici. E troppo poco controllati anche. Io conosco bene questo organismo per via di mio padre, che ha fatto parte dell'organismo per 20 anni e si è recato a Roma ogni settimana per discutere con i rappresentanti del governo, e tuttora è un lavoro difficile. Per chi è membro della Commissione dei Sei, ricordiamo anche adesso ultimamente questo sforzo di mediazione che è stato fatto per trovare una soluzione per la autonomastica. Comunque c'è da dire per farla breve, che non è democraticamente rappresentativa la commissione dei sei. Per esempio, non tutti sono eletti, non si tratta di politici eletti, oppure non fanno parte le minoranze politiche, cioè le opposizioni, non hanno un obbligo di rendicontare, non possono essere controllati dal, per esempio, dall'organo eletto del consiglio provinciale. E quindi, sotto il profilo democratico, queste commissioni hanno effettivamente dei ritardi e dei difetti che bisognerebbe colmare, perché credo, come cittadini oggi, nel 2017, siamo più esigenti anche per quanto riguarda la democrazia. Passiamo al capitolo successivo, la parità delle lingue. La parità delle lingue è, direi, il vero pilastro di ogni autonomia in cui ci sono minoranze linguistiche o anche popolazioni etnolinguisticamente diverse. Più importante della proporzionale. Si discute spesso più accanitamente della proporzionale, invece l'elemento più importante è il bilinguismo, è la parità dei gruppi linguistici. Tant'è vero che in altre autonomie, in altre regioni autonome in Europa, voi trovate tanti diritti sui diritti linguistici e non invece la proporzionale, che c'è piuttosto in pochi casi di autonomie territoriali. E il bilinguismo non è neanche già così perfetto come ogni tanto forse noi pensiamo. L'ASTAT, per esempio, riporta nel suo barometro linguistico il fatto che il 60% delle persone di lingua tedesca segnalano delle mancanze o casi in cui non è stato rispettato. Nel gruppetto italiano invece sono solo il 14%. Poi c'è il problema delle imprese private che erogano servizi pubblici e sarebbero obbligate anche a rispettare il bilinguismo, ma non sempre lo fanno. E tutto questo va anche ancora precisato all'interno dello statuto. Il capitolo successivo è, naturalmente non può mancare, la proporzionale. Quali alternative alla proporzionale? Potrebbe essere superata? Sì, potrebbe effettivamente essere sostituita con delle soluzioni, delle formule migliori. Però abolirla semplicemente così, toglierla di mezzo, credo sarebbe un'occasione sprecata, perché di solito quando ci discutiamo liberamente della proporzionale sono in molti a dire sì, basta il bilinguismo, il patentino, non c'è bisogno di questo sistema rigido di quote. Invece il bilinguismo anche all'interno degli enti pubblici non è ancora perfetta, o è comunque una pianta da coltivare, da innaffiare, e così sarebbe il caso di pensare di rendere il bilinguismo anche un criterio centrale dell'assunzione. Quindi, con due frasi per accennare a questa proposta, che spero che venga ripresa, se vogliamo rafforzare il bilinguismo con criterio di accesso al pubblico impiego, allora si potrebbe fare semplicemente dei concorsi bilingui. E questo funziona nell'Unione Europea, perfino trilingue, e sarebbe semplice organizzarlo, che ogni candidato non possa semplicemente scegliersi la lingua in cui dare l'esame di ammissione, questo sapete pure del pubblico impiego, ma di dover dare l'esame nelle due lingue, sempre riferito anche sul servizio specifico, sull'impiego che andrà a fare, e quindi dovrà provare a conoscere le due lingue non solo in termini generali tipo patentino, ma di conoscerli proprio specificamente nel suo settore. E quindi entrerà il candidato, la candidata che è più brava sotto il profilo della sua professione, professionalità, ma anche poi sotto il profilo della lingua specifica dell'argomento. Pensate che oggi, questo credo non tutti sanno, oggi chiunque che si presenta a un concorso può scegliere la lingua del concorso, è libero di scegliere a prescindere dalla dichiarazione di appartenenza di un gruppo linguistico. Quindi anche se io mi fossi dichiarato italiano perché sono interessato di quel posto del pubblico impiego, poi nel momento del concorso posso di nuovo farlo in tedesco. Non c'è neanche tanta coerenza in ogni regola del nostro sistema. Ah, non è un'incongruenza questa? Effettivamente, un'incongruenza. Comunque, per concludere sulla proporzionale, vorrei anche ricordare questo. È comunque una formula che non ha solo riparato i torti del passato, ma ha in qualche maniera anche evitato clientelismo, eterni dibattiti su qualche ingiustizia, perché è un sistema così rigido, poi è applicato più flessibilmente negli ultimi anni. E bisogna anche dire, in futuro potrebbe proteggere di più il gruppo linguistico, i due gruppi linguistici più piccoli, l'italiano e quello ladino, non tanto quello tedesco. E così, per esempio, nell'intervista, ci sono anche una decina di interviste in questo volume con Urzi, lo dice anche francamente che se come politico realista di questa terra lui si pronuncia oggi a favore della proporzionale per proteggere gli interessi del gruppo linguistico italiano. E quindi bisogna proprio stare attenti anche a questo fattore, che senza la proporzionale potrebbe esserci difficoltà per chi fa parte del gruppo italiano, e potrebbero esserci tanti più interessati anche provenienti da altri paesi dell'Unione Europea che arrivano a un certo livello di bilinguismo, e quindi sarebbero forse poi nella libera concorrenza avvantaggiati. Quindi di nuovo il discorso del cavallo, no? Forse non mi conviene cambiare il cavallo se vince la corsa. Un discorso più complesso, spero portare su questo, torniamo poi più tardi, la scuola bilingue del capitolo successivo. Abbiamo bisogno della scuola bilingue? Ho saltato un capitolo, no, non, forse... Per ancora due parole sulla questione autonomia tributaria, argomento difficile su cui meglio non creare troppe illusioni. Il mio testo, a proposito, non è, credo, per nulla utopistico, ma piuttosto insomma realista anche. Nella questione dei tributi si tratta oggi, per esempio, di sfruttare meglio le competenze che già ci sono e non vengono applicate. Ci sono degli articoli nello statuto che consentono alla provincia di sostenere lo Stato nel momento dell'accertamento, per l'accertamento dei tributi. Ma non viene quasi sfruttato questa possibilità. Poi ci sono anche dei tributi locali che la provincia potrebbe applicare e non vengono utilizzati, forse perché la provincia ha già le tratte sufficienti. E quindi oggi si tratta neanche di pensare a una sovranità tributaria, un'autonomia tributaria totale, come viene invocata da parecchie forze economiche, sociali, anche politiche. Credo che nello Stato italiano oggi questo è semplicemente impossibile farlo. Questo lo spiego poi più da vicino, precisamente nel testo, ma ci troviamo in una situazione in Italia in cui questo scardinerebbe la solidarietà, la funzionalità del sistema della finanza pubblica, provocherebbe anche una forte concorrenzialità fra le regioni, quindi nuova invidia delle altre regioni, con tutta una serie di problemi legati. Quindi è proprio da pensarci bene se voler aumentare l'autonomia tributaria, e del resto è poco probabile che venga concessa. La scuola bilingue, qui andiamo al capitolo 7-8. Abbiamo bisogno di una scuola bilingue? Io anticipo la mia risposta, è quella no. Sicuramente è un po' controcorrente, perché oggi c'è un gran movimento ormai che si pronuncia per la scuola bilingue, che significherebbe dover cambiare un articolo chiave dello statuto di autonomia che conoscono, uno dei più conosciuti, l'articolo 19, che richiede che ci sia i docenti di madrelingua nelle scuole. Perché non abbiamo bisogno di una scuola bilingue? Abbiamo bisogno di rafforzare e migliorare l'insegnamento della seconda lingua, poi anche della terza lingua, ma non c'è bisogno del modello, lo chiamo così, austano per la provincia di Luzzano, cioè la scuola bilingue a tutti gli effetti, con spara tempi e equifa tedesco italiano. Semmai, la mia proposta, si tratta di aumentare gli spazi di autogestione, autoamministrazione di ogni gruppo linguistico per quanto riguarda la scuola, perché ci sono anche i bisogni che sono diversi. Non sono diversi solo per i latini, scelto il loro tipo di scuola, ma anche per il gruppo di lingua tedesca e per lingua italiana. Ampliare gli spazi democratici, questo è un argomento che mi sta molto a cuore, e per chi si batte per più democrazia diretta, effettivamente non siamo ancora arrivati a una situazione molto soddisfacente. Già nel 2001 lo Stato italiano ha dato alla provincia, alle due province autonome, la facoltà di disciplinare questo settore, cioè sia la legge sull'elezione del Consiglio provinciale e anche la democrazia diretta. Però non è ancora uscita una legge veramente praticabile, una legge veramente soddisfacente anche per la partecipazione diretta dei cittadini. Quindi si tratta da una parte disciplinare meglio la democrazia diretta per la provincia, per politica provinciale, dall'altra parte però anche i diritti di partecipazione dei cittadini che vivono qui per quanto riguarda lo statuto. Questo quasi non figura nello statuto, quasi una parte di diritti che è assente, di nuovo 50 anni fa non era sul tavolo delle trattative, non era un problema sentito dei politici di quegli anni. E quindi voi trovate qui un elenco molto preciso dei diritti, pagina 95, dei diritti aggiuntivi che lo statuto dovrebbe includere. Cito un esempio: noi abbiamo come cittadini in Italia il diritto al referendum confermativo quando si cambia la Costituzione e anche quando si cambia, in continuo alto adige, lo statuto del comune. Questo c'è da poco più di un anno, Però questo diritto non esiste per quanto riguarda la provincia. La provincia, che poi è anche un livello politico molto importante per noi, non prevede questo diritto di referendum confermativo quando sarà modificato lo statuto. Forse per lendere a rendere l'idea, se il Parlamento domani, fra un anno, modificasse lo statuto e lo facesse in modo poco accettabile, allora basterebbe la voce della SVP, del PD, per dire sì, una trattativa fra i vertici di partiti, e non sarebbe richiesto di consultare anche la popolazione. Invece questo diritto l'abbiamo sulle modifiche della Costituzione e anche sul livello poi inferiore. Solo questo esempio ancora, non c'è neanche la possibilità di fare una iniziativa popolare per modificare lo statuto di autonomia. Da noi cittadini non può partire un'iniziativa per modificare lo statuto, anche se fosse l'idea più generosa, più interessante. Anche perché nasce già antidemocratico, perché il gruppo tedesco è più numeroso, quindi sarebbe a vantaggio del gruppo se cambia lo statuto, e se fossero articoli a vantaggio del gruppo tirolese tedesco, vincono loro, diciamo, e noi non possiamo dire niente. Non è questa la questione. No, potrebbe darsi che un gruppo di cittadini proprio di ogni trasversale, di ogni gruppo linguistico, ha una bella idea. Prendiamo l'esempio della scuola bilingue. Che forse io lei non condivide, ma comunque sarebbe un folto gruppo. Come tale, come gruppo di cittadini, non possono avanzare la proposta, una proposta di legge per modificare l'articolo 19, perché non è previsto da nessuna parte. Praticamente dico, lo statuto, a differenza della Costituzione, nasce già antidemocratico. Nasce antidemocratico. Antidemocratico è un po' esagerato, è un po' forte. No, è una lacuna che, insomma, a quei tempi non c'era ancora il bisogno, nessuno l'ha richiesto, però oggi le cose sono cambiate. Scusi, ho capito, ma io lei prima ha detto la provincia questo potere non ce l'ha, ma i comuni sì. Allora i comuni potrebbero fare questo. No, nei comuni noi cittadini possiamo fare questo. Ah, sì, sì. Se cambia, se il Consiglio Comunale modifica lo statuto, noi cittadini possiamo chiedere il referendum confermativo su queste modifiche. Se non fossimo d'accordo, allora possiamo dire decidiamo tutti se va bene, e non solo il Consiglio Comunale. Forse per la provincia sarebbe un po' più complicato. Essendo tre gruppi linguistici diversi, comunque anche la scuola bilingue sarebbe, se i ragazzi non si possono incontrare, fanno la pausa separata, se sono separati e non si può parlare insieme, cioè come si può conoscere la lingua dell'altro? Solo studiando la scuola non basta, bisogna parlare con le persone. Manca l'uso. Forse tra poco di ritornare subito sull'argomento, fra 5 minuti, che finisco questa carrellata e poi riprendiamo l'argomento. Finisco velocemente questo andato. Comunque trovate ancora vari argomenti importanti, io cito ancora due, che mi sembrano proprio importanti, anche innovativi come proposte. Una nuova concordanza etnica, questo è il capitolo 10, per il governo della provincia. E come ricordo il punto di partenza che ho citato, se c'è più potere nelle mani della giunta, un'autonomia rafforzata, c'è più bisogno di far partecipare tutti in modo rappresentativo. Oggi siamo di fronte, e qui porto poi le cifre anche, a una situazione già da più di 24 anni che nella giunta provinciale c'è una forza politica italiana che rappresenta solo la minoranza del gruppo italiano. Potrebbe essere a destra, a sinistra, adesso è il partito del centro-sinistra. Comunque non c'è la maggioranza delle forze politiche di lingua italiana presenti, partecipi del governo provinciale. Questo non è una situazione, insomma, non dovrebbe durare in eterno, non è molto, direi, favorevole per la convivenza, al contrario, no? Ha proprio prodotto anche un certo disagio, non sociale, ma direi politico. La proposta che poi qui presento è quella di far partecipare il gruppo italiano, tutti i gruppi, in forma rappresentativa. Ho pronto anche la forma, l'ho anche già pubblicato su questo. L'idea non è stata ancora ripresa, ma sono sicuro che qualcuno la riprenderà, che in futuro, avendo anche più poteri a livello provinciale, ci sarà bisogno di avere una presenza di lingua italiana, di assessori italiani più forte nel governo provinciale. E tra parentesi anche dei ladini. I ladini sono presenti con un assessore, così voi direte sono super rappresentati. Però questo è solo un atto volontario, è un po' una grazia concessa dal Volkswagen, del presidente della provincia. Invece questo non è ancora un diritto. Bisogna dire che neanche i ladini, i politici ladini, lo hanno ancora rivendicato. Adesso rivendicano tanto. Adesso di Gozzi, per il prossimo, rivendicano quello che gli spetta e quello che non gli spetta. Sì, lo rivendicano con una proposta di legge. Anche qui confronto gli italiani, dico, sono due minoranze, ma c'è una bella differenza. Sì, ecco, questa è una parola chiave per anche ricordare che c'è un capitolo sui ladini, capitolo 14, e questo i diritti dei ladini effettivamente non sono completi, i diritti di rappresentanza, le possibilità che i ladini hanno nel pubblico impiego, e quindi credo che è necessario completare, colmare queste lacune. Però la proposta di far parte della giunta a titolo proprio obbligatorio non figura neanche nelle rivendicazioni che fanno la SFP. Ecco, si parla poi anche dell'autonomia nei confronti di Bruxelles, nei confronti cioè dell'estero, per così dire, se dell'Unione Europea, o anche i diritti sul piano regionale, internazionale, che non sono assolutamente soddisfacenti finora, e la stessa autonomia è sempre anche più arginata, più limitata, non tanto da Roma, ma anche da Bruxelles. Forse qualcuno di voi dirà, sì, se sul Tirolo fosse parte dell'Austria, sarebbe la stessa cosa. Come il Nord Tirolo è sempre parte della stessa Unione e quindi è anche sottoposto agli stessi limiti. Però comunque rendiamoci anche conto che un'autonomia come autogoverno di un territorio, libero autogoverno, è effettivamente da santa guardare anche nei confronti di un livello internazionale. Tutti i regolamenti, direttive che arrivano da Bruxelles, in effetti sono un limite che aumenta la mole di norme comunitarie. Sì, per finire, si porto anche alla fine qualche prospetto sintetico. Se vedete il libro, vi invito a consultarlo. Non solo ci sono le 33 proposte di Durnal, siamo già a pagina 149, interessanti perché Durnal è più coraggioso, se, mi sembra adesso, di avanzare qualche proposta che va un po' oltre, ma trovate anche poi nella tabella 7 il prospetto sintetico che propongo io e altre proposte ancora. Tutto questo comunque non è una proposta, direi, oltranzista. Qui non si parla di proposte che sono state ventilate nella convenzione, anche tipo provincializzare l'INPS, introdurre una RAI provinciale, darci una Landespolizei, oppure, come detto prima, realizzare l'autonomia tributaria completa. Queste sono tutte innovazioni pensabili anche, però semplicemente sono difficili da realizzare nel contesto dello Stato italiano, perfino neanche a medio termine. Ciò che propongo io è piuttosto un'evoluzione lineare del sistema di autonomia come lo conosciamo finora, che si inquadra bene nell'ordinamento costituzionale e che si muove anche nella logica di questo statuto, quindi che non è, credo, per nulla oltranzista, ma si tratta di proposte sicuramente realizzabili all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Cito un esempio, si parla anche, poi per quanto riguarda la democrazia, di autonomia statutaria. Per nulla un'utopia. L'autonomia statutaria significherebbe poterci dare lo statuto noi stessi, come organi eletti qui in provincia di Bolzano o anche Trento. È il diritto che compete a tutte le regioni a statuto ordinario in Italia. In quelle regioni, Lombardia, Veneto, eccetera, non è il Parlamento a fare lo statuto, ma è il Consiglio regionale. Quindi loro hanno autonomia statutaria, non hanno tanti poteri come noi, ma comunque sono più liberi per fare lo statuto come è il caso anche negli Stati. Sarebbe un po' espressione della sovranità costituzionale. Questa noi non l'abbiamo, anzi lo statuto, approvare lo statuto è compito esclusivo del Parlamento, e quindi sappiamo, non lo sappiamo ancora, ma sono veramente curioso quanto sarà realizzato di quelle proposte che adesso fatte all'interno del consiglio della convenzione, perché alla fine decide il Parlamento ed è così, non c'è autonomia statutaria, potrebbe però esserci. Ecco, quindi mi fermo qui sperando che sì, il terzo statuto, sì, il dibattito pubblico, anche i lavori della convenzione possano riprendere una o l'altra di queste proposte che qui presento e illustro, e che poi anche il terzo statuto effettivamente dia sia un salto di qualità per l'autonomia e per l'autogoverno, sempre ispirati da questi valori di fondo, non solo protezione delle minoranze linguistiche, un po' scontato, ma più autogoverno a livello locale e più democrazia, più partecipazione diretta dei cittadini. Adesso sarei molto contento se potessimo scambiare qualche parola. Qualche domanda? Una domanda c'era subito, l'ultimo che lei ha detto, qui se in provincia adesso un giorno che non hanno nel governo di fare qualcosa, no, la chiamerebbero lei una volta come esperto, ha scritto il libro, io credo che lei ne sa di più di quelli lì. Io credo, è una modesta proposta. comunque abbiamo cercato di farlo in modo più sistematico, di non far solo delle proposte spicciole, ma di esprimerci proprio sull'insieme dell'autonomia. No, io non credo che quei politici sono quegli esperti, no? Poi gli esperti sono comunque presenti nella condizione di... Prego, Stato. Visto che la sanità sta facendo una cosa che secondo me è molto intelligente, va verso le cose che dicevi. Non ci sono medici, infermieri di un certo gruppo, bandisce il concorso e ti dà a 3 anni di tempo per accedere alla conoscenza e avere pazienti. Credo che questo sia un bel ragionamento. Se non ci sono i medici di lingua tedesca, perché... Noi sappiamo che negli anni 70, 80, 90 la gente di tedesca che studiava era molto poca. No, ma poi ci sono gli parlano all'estero. No, no, perché vengono dall'estero. Pure vengono dall'estero. Però il problema è questo, che se non è un'autonomia autonoma, chiaramente avere questa disponibilità verso l'altro gruppo è importante, purché si copra il fabbisogno, quindi va verso questo orientamento, l'indicazione che sta facendo la provincia. Sì, sia questo come anche altre forme di flessibilità che sono già state inserite nell'applicazione della proporzionale. Sicuramente è noto che si possono aggiudicare, attribuire dei posti nel pubblico impiego in più, e quell'eccesso di posti assegnati a un gruppo viene poi compensato più avanti con nel prossimo e successivo concorso. Certo. Questo sistema flessibile, di applicazione flessibile, esiste già da tanti anni. No? Sì, però non si poteva. No, comunque superare la proporzionale oggi è possibile. In ogni caso sul piano delle risorse sociali, in cui potrebbe semplicemente valere il criterio del bisogno. E nel pubblico impiego io propongo, a differenza di altri partiti, di non perdere l'occasione di rafforzare un altro criterio, che è quello dell'effettivo bilinguismo, che va dimostrato, no? Non solo col patentino, ma con qualcosa in più. Praticamente dico, il rafforzamento del bilinguismo effettivo, vero, fa superare il concetto della proporzionale. La proporzionale può essere battuta tramite questo bilinguismo diffuso ed effettivo. Sì. Fino a quando non c'è questo, ma se ci fosse questo, la proporzionale non ha più senso di esistere, diventa soltanto una forma di convenienza, no? Sì. non corrisponde all'effettiva. Mentre il bilinguismo corrisponde, cioè io vedo che se sei bilingue corrisponde all'effettiva conoscenza, la proporzionale invece non corrisponde all'effettivo, sì. E quindi diventa una cosa di raccomodo a questo, di raccomodo a quell'altro, e quindi la società diventa ancora più ipocrita. Cioè, condivido questa valutazione. Rafforzare il criterio, e poi da sé se va via la proporzionale. Sì. Volevo portare a questo proposito la mia personale esperienza. Io ho fatto parte per 15 anni in commissioni per far entrare la gente nello Stato, al commissariato del governo, e ho sempre pensato quello che dice la signora, perché noi, e c'era anche lei, abbiamo assunto, tra virgolette, persone, avendo le due liste, italiano e tedesco, succedeva che il peggiore di uno della lista di qua veniva assunto, mentre il migliore dell'altro veniva scartato. Quindi noi abbiamo assunto personale anche scadente, e nella pubblica amministrazione non abbiamo bisogno di persone brave. Per cui ho sempre pensato, ma allora se tu sanno la... allora all'epoca non era così, non erano bilingui perfetti, perché pazienti erano un po' così, però rafforzando e controllando che il bilinguismo sia effettivo, esce il merito. ogni caso è la proporzionale, perché chi se ne frega se viene il germanico che è bravo, sa le due lingue bene, io che sono italiana non lo so tanto bene, non lo devo avere il posto, lo devo avere quell'altro. Se no rimaniamo sempre al nostro giardinetto, noi tutti qua, italiani, tedeschi, latini, qua nel nostro piccolo, e non ci apriamo all'Europa. È vero, per dire. C'è il fattore concorrenza di fuori, in Europa con il mercato del lavoro aperto, anche per tutti i cantini, c'è effettivamente, ma non bisogna neanche sopravvalutarlo, perché quale regione in Europa, in quale regione si può acquisire un grado di bilinguismo italiano-tedesco meglio di qua? No. Ticino, non credo. Beh. Ticino no. Poi gli svizzeri non sono neanche interessati. Poi siamo noi che siamo interessati. Però un altro problema, questo del bilinguismo, come diceva la professoressa, le scuole separate sono un grande problema, cioè il mancato incontro dei ragazzi nel cortile, diciamo. No, io faccio e quindi, come diceva suo padre, tutti assieme, ma due file avanti assieme, però ognuno nel suo reparto e separati. Questo non sarebbe stato bene. Io sono bilingue, ho amici italiani, amici tedeschi, non mi interessa, per cui non è vero per gli italiani e per i tedeschi. Però il punto che credo in questa discussione sulla scuola di va preso più sul serio è il diritto di ogni uomo di organizzarsi la propria scuola e quindi ben venga che per esempio il gruppo italiano si doti di tutte le misure possibili. No, ma io faccio un esempio, io quando sono arrivata in Alto Adige era la scuola italiana e la scuola tedesca insieme, entravano in orario separato, facevano la pausa in orari separati. Cioè, io posso capire la scuola italiana, la scuola tedesca, ma almeno durante la pausa che si incontrano tutti i ragazzi. E sicuramente la proposta di buon senso, però ricordo ancora il principio, è un principio democratico. Possono arrivare i migliori esperti, qui in sala, sulla questione di scuola bilingue, di multilinguismo, e farci capire che la scuola bilingue è la forma proprio ottima di insegnare lingue. Però resta comunque fermo all'interno del nostro sistema autonomistico il diritto democratico di ogni gruppo linguistico di darsi, organizzarsi, gestirsi la propria scuola. E se all'interno del gruppo tedesco prevale, come è oggi, l'80-90%, se si potesse fare una notazione, l'intenzione di fare una scuola tedesca, poi con tutte le possibilità di imparare la seconda, la terza, la quarta lingua, allora questo va rispettato, perché è un punto cardine di questo sistema di autonomia che viene definito anche autonomia culturale dei gruppi, cioè poter autogestirsi la cultura, tutto ciò che riguarda cultura, scuola, come gruppi linguistici. Questo è spesso sottovalutato, ma è un principio cardine. Prima che diceva questo, credo che sì, è vero, non sanno tanto bene poi l'italiano e il tedesco, alla fine gli statali nello stesso, ma io credo per esperienza anche molto personale, il patentino A, che è per quelli, no, lì il tedesco lo sanno quasi perfetto o non li promuovono. Il patentino A è abbastanza. Sì, no. Poi volevo parlare delle esperienze anni 80-90, sì. Diciamo. Io volevo dire una cosa più importante, dopo la dico dopo, è lo stesso. Volevo dire una cosa più importante sulle scuole. Io non credo che sia mai sufficiente, di questo sono la mia personale esperienza, la mia personale lavorativa esperienza, la mia generazione dopo tutto. La scuola non può essere resa mai responsabile di insegnare da sola una lingua. quel bambino non diventa bilingue perché sa la lingua che ha imparato a scuola. Quello prima di tutto ha bisogno di essere psicologicamente bilingue, non litigare, posso fare la pausa sede, sì, ma non sente a casa, e questo è tante volte nella sua vita, sente a casa i genitori che parlano un gruppo controllato. Cosa gli importa la scuola bilingue se sono i genitori che ancora non sono? È questo il negativo. La scuola non può essere resa e non è possibile che lo sia. È giusto che ogni gruppo si possa scegliere la sua scuola, ma poi non abbia neanche controllato bambini giocate assieme, caspita, e genitori, non parlate di un gruppo controllato quando il bambino con voi mangia la pasta asciutta. È la roba più la scuola non può essere mai resa unica responsabile del bilinguismo. Non lo può essere, non è giusto che lo sia psicologicamente prima. Va bene. Poi c'è un altro problema. Forse tocchiamo ancora qualche altro argomento. Cioè, no, prima se la scuola non è responsabile, però lo è tutto il mondo fuori. Il mondo fuori. Allora, la sociale è la scuola, però fuori, se un bambino vuole fare ginnastica, anche lì mi sembra che lavoriamo con il mondo dell'associazionismo, non è proprio così mescolato. Siamo di nuovo da capo, discende. I genitori non lo scelgono, perché la libertà c'è nelle associazioni, è un'altra volta che i genitori. Guarda, io ho le figlie che fanno parte di squadre agonistiche di sci, dove ci sono, ecco, di ragazze e parlano. E su questo hanno tratto sicuramente un grande vantaggio, perché stando insieme con i ragazzi di montagna, dove si parla in dialetto tedesco, hanno preso confidenza con questa lingua e si divertono a parlarla. Ma questa è l'organizzazione dei gruppi sportivi. Questo però, ecco, in realtà la scelta però anche uno sport che ti porta in zone periferiche, dove, ecco, perché in città diventa un po' più difficile. No, ma nessuno ci sia. Però dall'altro, ecco, forse bisognerebbe vedere anche un po' un'organizzazione, perché anche le associazioni, la divina di no, ma tendenzialmente, insomma, i circoli sportivi hanno un loro bacino di utenza che abbiamo definito, e allora anche lì le occasioni forse sono un po' più difficili da trovare, no? O è libera iniziativa tua, come nel tuo condominio, devi andare a cercare se effettivamente c'è il bambino e fare in modo che si avvicini, ma non è così forse diffusa. Ma c'è la possibilità, non sarà c'è la possibilità, c'è una domanda, cerchi bene che c'è. No, la mia domanda, sì. La scuola non può essere responsabile se da sola. Da sola. Però la mia domanda è questa, cioè abbiamo uno statuto d'autonomia che poi alla fine impone, tra virgolette, il bilinguismo, almeno per quello che è l'uso pubblico e quindi per accedere ai posti pubblici. Un giovane vive in questa terra e credo che a un certo momento deve diventare anche cittadino di questa autonomia. Quindi dal mio punto di vista credo che invece le scuole dovrebbero assolutamente avere il compito di portare una persona alla fine delle medie superiori ad avere quantomeno in automatico il patentino minimo. Il che significa che se una persona non impara l'altra lingua, non deve proprio prendere nemmeno la responsabilità. Questo è il concetto, come dire che nello Stato italiano io frequento l'università di medicina, però alla fine la facoltà non mi porta a diventare medico. Cioè, a questo punto, scusate, si sta inceppando tutto quanto. Quindi se io pago le tasse qui in Alto Adige, da un certo punto di vista dovrei pretendere che mio figlio alla fine esca non solo avendo fatto educazione civica per quello che riguarda alcuni valori condivisi, debba arrivare come minimo al patentino B in automatico, cioè nel senso che alla fine è stato valutato anche per questo che possa accedere al ministerio. A questo punto però l'esame di Stato dovrebbe includere obbligatoriamente la prova nella seconda lingua. Ma il patentino B alla maturità di solito se non lo so, in automatico, ma da questo punto di vista, voglio dire, fino adesso l'articolo 19 era stato interpretato come blocco tra un gruppo e l'altro per quello che riguarda la libertà di poter insegnare, di avere un percorso che portasse all'apprendimento di una lingua. Quindi questo di nuovo è un problema politico, cioè, voglio dire, ultimamente però le non è questo senza dire sono... che l'altro gruppo ha l'ottico di interpretarlo in quella sì, maniera, però ogni gruppo lo può fare nella propria, nel proprio ambito, e addirittura a livello potrebbe essere soltanto volontario, cioè se quel genitore sì, non vuole assolutamente che suo figlio impari la seconda lingua o chissà che cosa, è ancora libero di continuare un percorso. Capito perfettamente, sì, no, no, è molto interessante questa proposta. Certo, questa proposta mi sembra poi questa proposta mi sembra molto sensata, tant'è vero che l'università di Bolzano, la nostra di Bolzano, va già applicata all'università, i ragazzi non si laureano se non hanno passato l'esame linguistico prescritto come prerogativa alla laurea. Non si laureano, hanno tutti gli esami fatti, tesi pronta e non si laureano. L'idea mi sembra molto molto buona e troverebbe anche terreno fertile, perché anche in questo è successo che si sono lamentati tutti, ma non è possibile, ma non si può costringere, ma non si può far perdere del tempo prezioso a questi poveri che non riescono a fare l'esame di lingua. Alla fin fine l'hanno capita, hanno capito nel giro di 2 anni, non servono decenni per farlo capire. Allora, un po' di forza per costringere le persone è molto molto utile. Questo è un posto molto utile. E qualcuno degli studenti inizia a imparare questa lingua solo dall'università, eh? Qualcuno che viene da altri paesi. Quindi non è prova da poco, deve arrivarci entro questi 3, 4, 5 anni. Si chiama per no, ma per svegliare la popolazione locale. No, io volevo dire questo, visto che lei ha fatto un lavoro molto dettagliato, coinvolgendo personaggi di tutti i settori qui, no? Penso che sia in grado di tirare una somma dove si può arrivare se questo statuto riesce a essere modificato nei tempi ragionevoli, diciamo. Lei praticamente con questi suoi studi ha consultato politici, esperti di tutti i tipi, quindi credo che sia in grado di esprimere un parere abbastanza valido. Ma è un contributo al dibattito che è corso da insomma non solo un anno, ma più anni. Poi è difficile dire quando questo processo di riforma arriverà al traguardo, perché ci sono dei tempi anche un po' lunghi, sia perché dopo la conclusione della convenzione, questa metà di quest'anno, tutto passa alla palla passa nel campo del Consiglio Provinciale, che avrà bisogno sicuramente di mesi per valutarli e farà la sua proposta, spero ancora in questa legislatura. Poi la palla passa al Consiglio regionale, di nuovo passano dei mesi per trovare un accordo fra Trento e Bolzano, e poi forse nel 2019, e sarà già la prossima legislatura nazionale, finalmente il Parlamento se ne occuperà, e poi anche il nuovo Parlamento avrà da fare un sacco di cose. Credo realisticamente andremo più sul 2020 che sul 2018. Grazie ai politici maloniti che hanno tra di loro per cercare di trovare un certo là. Sì, infatti. Chiedo un'altra cosa. Siccome abbiamo distribuito delle copie, chi avesse interesse ad acquistarla la può pagare subito, altrimenti la invitiamo le persone a restituirla. Certo. Sì, sì, il libro oggi è un prezzo scontato di 10 euro. No, volevo chiedere il suo parere sui nostri, a quello che fanno un gran caos sui cartelli monolingue che si chiamano anche qua, invece che cosa ne penserei di questo problema? Che insomma i cartelli dovrebbero essere bilingue, perché insomma sia il gruppo tedesco che il gruppo italiano sono nella propria madrelingua, perché l'Alto Niederrhein ha cambiato questi cartelli pagati con i soldi degli italiani. Anche l'Alpenverein ha ricevuto dei soldi di risarcimento dello Stato italiano. 10, grazie. Sì, la domanda è sulla tua parte. Dite la luna, signora, dite la luna. Sì, no, invece di parlare di problemi reali, creano questi problemi. Sì, la questione è non da liquidare con due parole, non sarebbe giusto. E comunque io l'affronto, la questione della toponomastica, trovate il capitolo, e sono convinto che questa posizione dalla maggior parte dei cittadini di lingua italiana non è condivisa. È un'affermazione che insomma si infila più nella tradizione di Lucio Luzzatto, non so chi ha mai sentito questo nome, politico, che è conosciuto bene il Tirolo. E è una tradizione, direi, che è molto coerente anche nell'interpretazione della storia democratica, antifascista di questo paese. E con i nomi tolomeiani ho effettivamente una proposta molto chiara, netta, però va detto, aggiunto, che ormai bisogna trovare una soluzione di compromesso mediata. E sono stato adesso personalmente anche molto deluso che quella proposta della Commissione dei Sei alla fine non è arrivata, che era un compromesso estremo dal punto di vista dei gruppi, diciamo, che hanno subito il torto tolomeiano. Adesso sarebbero stati disposti, no, a firmare questo, però qualcuno ha poi rovinato il gioco. Cartelli monolingue vengono cancellati in italiano. Sarebbe una parte del prontuario tolomeiano sarebbe stato messo in discussione in un processo di coinvolgendo sia esperti sia anche esponenti di vari livelli di amministrazione, e quindi una parte comunque sarebbe dei nomi di Tolomei sarebbe comunque stati salvi e confermati in ogni caso. Una parte forse più piccola, soprattutto dei nomi della microtoponomastica, sarebbero andati al vaglio di questo processo, diciamo, di valutazione proprio spicciola. Caldaro, per esempio, dei cartelli, dove non c'è scritto strada, io lo capisco, sì. C'è scritto in tedesco, però non è giusto, cioè ma nessuno ha mai proposto neanche forse i partiti della destra tedesca hanno proposto di eliminare i nomi dei comuni o delle frazioni. Anche se lei guarda la legge provinciale del 25 settembre 2012, quello messo, sofferto fra PD e SOP, poi impugnato dal governo, ha previsto il mantenimento, la conservazione di tutti i nomi delle frazioni, dei comuni, naturalmente, tanti altri ancora, ma avrebbe istituito una procedura di valutazione della microtoponomastica. E questo veramente sarebbe funzionato solo con il consenso di tutti i membri adesso come previsto nella norma di attuazione. Quella commissione poi incaricata di giudicare l'ammissione di un nome o no avrebbe potuto proprio esprimersi solo con la maggioranza di 4 su 6 e anche di due membri di lingua italiana su 3, quindi praticamente quasi consenso di tutti. E con questo voglio solo dire che è stato quasi, siamo arrivati a un compromesso accettabile e qualcuno ha pensato ancora di rovinare la festa. E c'era ancora la parte del signor Alfano. Volevo chiedere cosa pensa lei della regione. Sì, anche questo argomento dedicato a tutto non risponde delle due frasi comunque. La mia proposta è simile, cioè lasciate una proposta che non piace ai miei amici trentini, però è in linea di nuovo con il principio di base della democrazia. Perché pensate un po', chi ha mai posto in a votazione in questa provincia la regione? La regione di Alto Adige, che è un'istituzione credo superata, anacronistica, costa un sacco di soldi, ma è superflua ormai. E anche se qualcuno qui è a favore della ragione, forse la maggior parte del gruppo di Divino Italiano, però mai la popolazione ha potuto esprimersi sull'esistenza della regione. In Italia una volta c'era una soluzione di una regione, chi si ricorda? Abruzzi, Molise. Sì, hanno votato, poi si sono pacificamente lasciati, adesso sono buoni vicini. Questo sarebbe possibile anche per le Trentino Alto Adige. Non è un grande problema. No, non è una questione di più, però sarebbe molto tutta l'architettura dell'autonomia di questa provincia. Anche il Trentino avrebbe più libertà, non dovrebbe sempre chiedere i Bolzanini o viceversa. Però se legge il capitolo, poi non è che questa soluzione logica è proprio l'ultimo saggezza, forse per motivi di solidarietà, noi in Bolzano potremmo anche starci e prolungare questa lunga agonia anche per altri decenni. Però di nuovo credo che la soluzione più democraticamente, più netta sarebbe quella di chiedere la popolazione. Sì, vi ringrazio dell'intervento.